Andiamo a Pistoia da Lapo, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Lapo, come va? Bene, grazie. Senti, io ho fatto un traslocco un po' anomalo, mi sono trasferito di circa 20 metri. Cioè, ho fatto il mio trasloco prima con un'ape, mm? E poi si è rotta. E poi? E dopo la terza volta ho preso una bicicletta con un carrettino e ho trasportato tutte le mie cose dall'altra parte. Ma scusa, la prima domanda è perché ti sei trasferito di 20 metri, Lapo? Perché prima stavo in un condominio e ora invece sto in una villettina a schiera e sto molto meglio. Ma e vivi da solo? No, sono con la mia famiglia. E nessuno ti ha dato una mano? Certo, tutti mi hanno dato una mano. Ah, mio ok. Figlio. Ma l'ape era tua? L'ape era di mio figlio. L'avevo presa invece di prendere il motorino. Ah, grande, sei di quelli che preferiscono le tre ruote invece che due perché è più sicura. Esatto. Ma tra l'altro, Lapo, perdonami, tu lo saprai meglio di me, perché io avevo un amico che da bambino il padre, seguendo il tuo consiglio, gli aveva comprato invece del ciao l'ape e lui l'aveva elaborata, eccetera, eccetera, e sosteneva di riuscire a impennare con l'ape. No, ha provato anche mia figlia a cambiare, ma non è mai riuscita non a ce impennare. La okay. Ok, senti, invece il carrettino più o meno che dimensione aveva? Perché effettivamente non è male l'idea. 2x1. Oh, 2 metri per uno? Sì, 2 metri per Quanto uno, tempo sì. Ci hai messo, Lapo? Ho messo una ventina di giorni, va tutto. Una ventina? Dopo aver preparato le scatole e tutto il resto. Ok, Lapo, mi dai un consiglio per sabato pomeriggio? Cioè? Devo fare un trasloco. Carrettino sei vicino, se non l'ape.